vita mi circonda, vedo luccicare una stella, è il fatto che guida il mio canto, è l'universo che è infinito, quanta strada per arrivare là, per arrivare là. Tracciare una strada avanti.